Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. L'Italia è uno dei paesi con il sottosuolo più caldo del mondo ed è stato anche il primo a utilizzare il calore geotermico per produrre energia elettrica all'inizio del Novecento. Ma dopo un esordio veramente molto brillante, la geotermia si è fermata in Italia, rimanendo al palo per decenni, dove peraltro si trova tuttora, nonostante nel 2010 sia anche stato liberalizzato lo sfruttamento delle risorse geotermiche, cosa che aveva fatto sperare molti dei suoi sostenitori. Invano però, perché i nuovi progetti e soprattutto le richieste di nuovi permessi di ricerca sono tutti inchiodati dalla burocrazia, e di recente proprio nella patria della geotermia, quindi proprio la Toscana, è spuntata anche una moratoria che intende bloccare tutto almeno per i prossimi 6 mesi. Ne parliamo con Alessandro Sbrana, professore dell'Università di Pisa, professore appunto di geotermia. Buonasera Sbrana. Buonasera a voi. Senta, allora intanto ci dica una cosa: quanta energia ci potremmo fare con questa benedetta geotermia? Allora, il potenziale della geotermia, distinguendo la geotermia elettrica da quella termica, adesso siamo a circa 850 megawatt installati, che ci sono previsioni molto variabili di incrementare entro 4-5 anni di circa 300 megawatt attualmente installato. Altre stime danno 3.000 megawatt. 10 volte tanto. Questo indica una sostanziale scarsa conoscenza del potenziale che c'è. Ecco, questo per l'elettrico però, dicevamo, no? Sì, quello elettrico, perché sul quello che riguarda il potenziale termico, quindi considerando le acque termali, quindi 27-30 gradi, da lì in su, 100 gradi, che è il limite della bassa temperatura, il potenziale è enormemente più elevato e tra l'altro pochissimo utilizzato. Pochissimo utilizzato, sì. Tutte le regioni, no? Sì. Lazio, Roma, Viterbo, la Toscana, con tutte le aree che vanno dalla pianura di Pisa alla Miata. In pratica queste zone stanno su delle grandi falde acquifere dove l'acqua si trova a 20, 30, 50, 60 gradi a seconda poi della profondità, è vero? Certamente. Cioè, quindi andando giù poco, non parliamo di chilometri ma di decine o centinaia di metri al massimo, si trovano queste risorse che potrebbero essere usate magari non per produrre energia elettrica ma per riscaldarci le case, lei dice, no? Assolutamente. L'esempio classico è quello della pianura di Pisa. Nella pianura di Pisa a 600 metri ci sono 55-60 gradi in un serbatoio carbonatico, quindi con una potenzialità notevole di produzione. Di produzione. Eppure questo potenziale non è mai stato, è stato scoperto da Enel e dal CNR 20 anni fa e poi abbandonato. Ecco, senta, uno dei motivi però per cui oggettivamente poi partono sempre i comitati del no sono le cattive esperienze del passato, fuoriuscite di gas più o meno pericolosi, più o meno puzzolenti. Ecco, oggi questi problemi sono superati? Diciamo che lavorando con tecnologie moderne questi problemi sono superati sicuramente. Sostanzialmente come si fa, come si risolve il problema? Beh, oggi diciamo che la reiniezione viene ormai attuata in tutti gli impianti geotermici, anche quelli tradizionali. Cioè l'acqua calda che viene tirata su da sottoterra viene ributtata lì da dove è venuta sostanzialmente. Dandogli una buona quantità di energie. Certo. Ecco, quasi tutti i permessi di ricerca nuovi, sì, quelli 2010, no? Dopo la liberalizzazione del mercato geotermico, comprendono quasi tutti centrali di produzione a emissioni zero. Quindi con la reiniezione di questi fluidi diciamo nel serbatoio da cui provengono, cosa che eliminerebbe i problemi di inquinamento. Però qui salta fuori, dice qualcuno, un altro problema, perché in passato sperimentazioni di questo tipo hanno causato effetti di tipo sismico. Che cosa ci può dire su questo? Beh, in passato sicuramente ci sono stati problemi di microsismicità. Gli esempi che conosciamo tutti sono quelli, per esempio, di Latera nel Lazio settentrionale. Però l'operatore elettrico dell'epoca, l'Enel, aveva risolto questi problemi. La microsismicità era monitorata. Quindi anche questo è, diciamo, un aspetto che si può considerare più o meno superato? Superato completamente probabilmente no, ma controllabile e gestibile dal punto di vista tecnologico invece sicuramente sì. Chi si rende conto che esiste un problema si interviene, per esempio invece che fare un pozzo di reiniezione se ne fanno due. Certo, e il problema si risolve. La pressione sulle rocce. Per uscire da questa situazione di impasse che cosa servirebbe? Allora, servirebbero fasi autorizzative molto, molto snelle, quindi 1, 2, 3 strutture autorizzative, no? L'hanno fatto per il petrolio, voi dite fatelo anche per noi, signori, no? Certamente, certamente, qualcosa che snellisca tutte le procedure per le aziende. E a proposito delle paure dei cittadini? Le paure dei cittadini diminuiscono se facciamo conoscere quello che facciamo e se siamo in grado di controllare le attività sul territorio in maniera opportuna. Quindi maggiori competenze sul territorio e maggiore sicurezza per i cittadini. Grazie, grazie Alessandro Sbrana. Prego. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.